con la giornalista Anna Maria Selini, moderatrice dell'incontro La guerra di Gaza, i fatti e le narrazioni. A Roma, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il 19 marzo 2024. Ben trovata. Di Buongiorno. cosa si tratta? Si tratta di un corso nato per la formazione dei giornalisti. Noi abbiamo un obbligo di formazione annuo e quindi nasce per questo, nasce per raccontare la guerra di Gaza, ma nasce anche per spiegare e per analizzare il racconto che viene fatto ed è stato fatto a partire dal 7 ottobre. Come nasce tutto? È un'iniziativa della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, a cui hanno aderito diversi giornalisti, ed è strutturata in due parti. Nella prima parte ci saranno Lucia Goracci, Alberto Negri, Riccardo Nuri e Alessandra Costante, che parleranno proprio e analizzeranno la narrazione che è stata fatta dai media italiani, anche però confrontandola con i media stranieri. Nella seconda parte invece parleremo con due giornalisti che stanno sul campo, ovvero un giornalista israeliano e una giornalista palestinese, che ci racconteranno il loro punto di vista e quello che vedono e che affrontano ogni giorno. Com'è lo stato di Gaza dal punto di vista dell'informazione, a partire dall'altissimo tributo di sangue degli operatori, dei reporter? Quello che sta succedendo a Gaza dopo il 7 ottobre non ha precedenti. Sono stati uccisi oltre 100 giornalisti, purtroppo il bilancio sale di giorno in giorno. E la grande differenza rispetto ad altri conflitti è che questa volta i giornalisti sono stati presi di mira, sono stati dei chiari obiettivi, in alcuni casi addirittura sono state prese di mira le loro famiglie. Questa iniziativa nasce anche per questo, per esprimere la solidarietà dei giornalisti italiani e della Federazione Nazionale della Stampa verso i colleghi palestinesi. Perché i giornalisti vanno protetti, sono tra i soggetti che vanno protetti in tutte le guerre e quindi questo non può succedere. Com'è l'approccio all'informazione in Italia e all'estero rispetto a Gaza? Sicuramente la narrazione italiana non si colloca tra le migliori narrazioni del conflitto, perché purtroppo molto spesso risente della propaganda israeliana e dall'altro anche della propaganda palestinese. Indubbiamente però c'è stato un cambiamento dovuto al fatto che nella striscia di Gaza si sta compiendo un vero e proprio massacro, siamo ormai a oltre 30.000 vittime e questo indubbiamente sta influenzando la politica italiana, ma anche il racconto giornalistico. Chiaramente per la parte palestinese è fondamentale la testimonianza di quanto sta succedendo. Sì, una delle cose più importanti che va ricordata è che Israele ha vietato l'ingresso nella striscia di Gaza di corrispondenti e giornalisti stranieri. Quindi gli unici che possono raccontare e mostrare al mondo quello che succede a Gaza sono i giornalisti palestinesi. Questa naturalmente è probabilmente una delle motivazioni che ha portato a questo grande numero di giornalisti palestinesi assassinati e anche al grande numero di blackout che ci sono stati nella striscia di Gaza a partire dal 7 ottobre, proprio perché non si vuole mostrare, non si vuole far vedere quello che succede nella striscia, ma grazie ai social media e grazie appunto al lavoro straordinario dei nostri colleghi, purtroppo siamo riusciti e riusciamo a vedere quello che succede, anche se questo poi non si traduce in azioni politiche adeguate. Come riescono a far fronte ai blackout i giornalisti e le giornaliste a Gaza? Sicuramente tutti hanno dei generatori, tutti riescono in qualche maniera a trovare degli spazi, magari legati all'ONG oppure utilizzano i telefoni satellitari. La cosa che sta aiutando sicuramente i giornalisti palestinesi è la grande eco che c'è stata a livello internazionale, la grande attenzione, quindi il fatto che vengano rilanciati, monitorati e venga lanciato un allarme ogni volta che c'è un blackout. Il blackout non è soltanto fisico, è anche digitale. Per esempio, è stato dimostrato che la piattaforma Meta ha censurato e censura in maniera superiore i contenuti palestinesi, i profili palestinesi rispetto a quelli israeliani. Quindi è veramente una guerra nella guerra, quella per i giornalisti e gli operatori dell'informazione dentro Gaza. Che peso ha il giornalismo e le piattaforme indipendenti? Sicuramente in questo conflitto, secondo me anche più di altri, i social media hanno avuto un ruolo fondamentale. perché molto spesso hanno costretto l'informazione mainstream a correggersi in un certo senso. A me è capitato spesso di leggere commenti sotto, anche in siti abbastanza noti, di giornalisti noti che però a Gaza non hanno mai messo piede, commenti di lettori che postavano link di altre testate, anche testate naturalmente mainstream, indipendenti, straniere, oppure dimostravano attraverso dei collegamenti provenienti dai social media che quello che stavano dicendo non era vero. C'è stata una grande sete di informazione, secondo me, a partire dal 7 ottobre. Perché? Perché è mancata per tanto tempo la narrazione di quello che stava succedendo tra Israele e palestinesi. E quindi gli italiani, soprattutto i giovani, sono veramente corsi ad informarsi da soli. E questo ha modificato, a mio parere, anche la narrazione dei media mainstream, che hanno dovuto quasi necessariamente dare spazio ad argomenti che finora non avevano trattato. Come si riesce a far fronte all'assuefazione che a partire dall'Ucraina fino ad arrivare al genocidio a Gaza si sta diffondendo rispetto all'opinione pubblica? Sicuramente siamo completamente in uno stato di sovrabbondanza di informazione, le informazioni veramente ci schiacciano a volte. Però io credo che quando si tratta di diritti umani, quando i diritti di un popolo vengono calpestati in maniera così evidente, non possiamo rimanere indifferenti, perché riguarda ognuno di noi, perché riguarda i diritti basilari dell'essere umano e in un certo senso potrebbe capitare a ognuno di noi. Se non manteniamo alta l'attenzione, se non continuiamo a difendere certi diritti che non sono scontati, purtroppo il rischio è per tutti. L'incontro La guerra di Gaza, i fatti e le narrazioni, a Roma alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, martedì 19 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento alla giornalista e moderatrice Anna Maria Selini. A presto! Grazie, grazie a voi. Thank you.

con Chiara Becchimanzi, direttrice artistica del progetto Spazio Comedy Show a Roma, Teatro Lo Spazio, da domenica 17 marzo 2024. Ben trovata. Ben trovato a te, Spio. Ciao, buongiorno. Il Teatro Lo Spazio ha deciso di aprire questo percorso di stand-up comedy, quindi abbiamo realizzato questo progetto che consta di 3 appuntamenti che cominciano il 17 marzo con spettacoli di stand-up a 3. Apriamo io, Velia Lalli e Frad, quindi saranno tutti artisti e artiste d'eccezione che appunto popoleranno questi appuntamenti appunto al Teatro Lo Spazio. Poi anche 2 open mic per i principianti e le principianti, o anche per coloro che hanno bisogno di provarsi un pezzo, quindi anche per chi ha voglia di qualcosa di nuovo e ha bisogno di testarlo col pubblico. Quindi il primo appuntamento di stand up è il 17, come giustamente ricordavi tu. Il primo appuntamento con l'open mic è il 31 marzo e la partecipazione all'open mic è aperta a tutti e tutte, basta inviare una mail all'indirizzo info@teatrolospazio.it con indicazione del pezzo che si vuole portare, così noi poi facciamo la scaletta e tutto quanto. Inoltre, a ciascuno open mic, qualora fosse necessario, è collegato un workshop con me per chi avesse bisogno di indicazioni per mettere a punto il suo pezzo. Un workshop che verrà realizzato nei 2 sabati precedenti all'open mic. Quindi il primo workshop si fa il 23 marzo e il 30 marzo. Che cadenza avrà tutto quanto? Una cadenza mensile, un appuntamento al mese per la stand-up, quindi 17 marzo, 14 aprile e 12 maggio, e 2 appuntamenti per l'open mic, 31 marzo e 28 aprile. Quante artiste e quanti artisti sei riuscita a mettere insieme? Siamo 10 stand-up comedian, quindi 3 per le prime 2 serate, 17 marzo e 14 aprile, e 4 addirittura per l'ultima, 12 maggio. E gli open mic stiamo vagliando le candidature, quindi diciamo che ci saranno, ogni comedian porta un pezzo da 6-7 minuti, diciamo che dovremmo essere una decina a sera, quindi è un sacco di gente sostanzialmente, una 30ina di persone, ecco. Il tuo è un lungo percorso che arriva fino a qui, raccontiamo un po' come nasce questo progetto. La mia collaborazione col Teatro Lo Spazio inizia a mettere insieme l'anno scorso, perché ho co-condotto insieme a Fabrizio D'Alessio il 25 aprile una serata di beneficenza lì al Teatro Lo Spazio. Ci siamo piaciuti, ci siamo incontrati, è scattata la scintilla e quindi da lì stiamo mettendo a punto questo progetto. Invece ovviamente il mio rapporto con la stand-up inizia da lontano. Io vengo dal teatro, quindi dal monologo comico, il teatro anche di compagnia. Poi nel 2019 ho scoperto la stand-up grazie al mio collega e amico fraterno Daniele Fabbri, e da quel momento in poi ho iniziato anche il mio percorso con la stand-up, che mi porta in giro per tutta Italia a dire le mie cialtronate nelle mie 2 terapie, la terapia di gruppo e la terapia d'urto, che sto portando in giro per l'Italia. Com'è lo stato dell'arte della stand-up, sia rispetto ad artisti ed artiste che rispetto agli spazi? C'è un grande interesse, anche veicolato dall'attenzione mediatica maggiore rispetto a questo linguaggio che qualche tempo fa era ancora più di nicchia, adesso si sta aprendo un po' al pop. Chiaramente, come dico sempre io, la stand-up comedy non nasce per essere pop, nasce per essere fringe, per essere di nicchia, per essere un graffio, per essere un linguaggio di rottura. Quindi nel momento in cui diventa troppo pop, quasi non è più stand-up comedy, per quello che penso io. Poi ognuno, ovviamente, ognuna ha la sua visione, i purismi non sono mai ben accetti, neanche gli integralismi dal punto di vista dell'arte. Gli spazi si stanno aprendo molto, in molte città anche di provincia c'è un'attenzione sia dei teatri che dei club alla stand-up comedy. È molto bello questo, perché c'è un circuito, si sta creando un pubblico, i social stanno dando una grande mano in questo senso, e anche in TV si sta cominciando a vedere qualcosa, che però ovviamente più pop è, meno stand-up comedy è, almeno questo secondo la mia personalissima visione della cosa. Stiamo aumentando proprio come livello di bacino di artisti e artiste che praticano questo linguaggio, che lo vogliono portare in scena, quindi adesso dobbiamo puntare ad aumentare il pubblico, perché più artisti e artiste siamo, di più pubblico abbiamo bisogno, altrimenti, come sai, proprio le leggi del mercato, quelle proprio keynesiane, basiche, insomma, c'è un problema, no? Quindi dobbiamo aumentare sempre più il pubblico, ma credo che ce la faremo. Quali sono le tematiche più interessanti che stanno emergendo? Ci sono 2 correnti, ci sono appunto la stand-up comedy che si basa sulla satira, quindi satira di costume, satira politica, satira sociale, che è quella per esempio che porto avanti io, ed è una scelta un po' di esposizione, nel senso esporsi per cercare di veicolare attraverso la risata altri contenuti. E invece c'è una stand-up comedy un po' più light, un po' più pop appunto, che riguarda proprio il far ridere per il far ridere, dove la risata è insieme l'obiettivo e il mezzo. Invece c'è quella satirica per cui la risata è il mezzo, che ha un altro fine, però in queste serate di stand-up comedy sto cercando di bilanciare un po' entrambe queste grandi correnti per dare una panoramica più ampia possibile, che sia il più ampio possibile, della situazione artistica della stand-up. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Tutte le pagine del Teatro Lo Spazio, quindi la pagina Facebook del Teatro Lo Spazio, la pagina Instagram, i miei profili, soprattutto quello di Instagram, che è quello più aggiornato proprio giornalmente, quotidianamente, e la mail del Teatro Lo Spazio, che ho citato prima, info@teatrolospazio.it, per prenotarsi all'Open Mic e anche per chiedere informazioni. Il progetto Spazio Comedy Show a Roma, al Teatro Lo Spazio, da domenica 17 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Chiara Becchi Manzi. Alla prossima! Alla prossima Federico, e grazie a te! Con l'antropologa Valeria Ribeiro Corossax per presentare l'incontro passato e presente coloniale nell'Italia di oggi. Una conversazione attorno al libro Lascara, una storia anticoloniale di Gebreyesus Hailu, a Roma, al Dipartimento di Studi Umanistici Roma 3, giovedì 21 marzo 2024. Ben trovata! Ben trovate e ben trovati tutti. Presentiamo questa iniziativa. Questa è un'iniziativa che ospito nell'insegnamento di antropologia culturale, che avrà come invitati il professor Alessandro Volterra, che insegna nel nostro Ateneo, e storia e istituzioni dell'Africa, così come avremo il piacere di avere con noi anche Oldelul Kelati Dirar dell'Università di Macerata, anche lui docente di storia e istituzioni dell'Africa. E l'obiettivo è sviluppare una conversazione, un po' come dice il titolo, a partire da questo testo che è stato pubblicato recentemente dalla casa editrice Tamu, che è stato tradotto dal Tigrigna, appunto, da Oldelul Kelati Dirar, che ha curato anche un'introduzione per presentare sia l'autore sia la storia, il contesto, ed è un libro, insomma, innanzitutto il mio obiettivo è anche riflettere sulle condizioni che hanno reso possibile la traduzione. Allora, certamente la casa editrice fa un lavoro grandissimo e molto importante, però certamente noi negli ultimi anni abbiamo visto un contesto di apertura più dinamico e di riconoscimento, di uno sforzo del riconoscimento del nostro passato coloniale, e con l'obiettivo non solo di una conoscenza di quello che è il passato, che questo, diciamo, è più materia per gli storici e le storiche, ma capire come questo passato ha una relazione con la nostra attualità, con il presente. E l'interesse di questo libro è, tra l'altro, diciamo, che è curato con una grande attenzione, che ha un apparato che segnalo perché vale veramente la pena leggere, che è la prefazione di Mazza Mengiste, che è molto bella, ma anche una postfazione di Alessandra Ferrini, che è un'artista che lavora da anni sul nostro passato coloniale e a cui dobbiamo anche la sua iniziativa per essere riuscita poi a trovare modo anche di pubblicare questo libro, che appunto ci interessa, come dicevo prima, perché ci parla del presente, perché questa memoria è una memoria distorta del colonialismo, di quello che abbiamo fatto, del razzismo, della lunga durata dell'esperienza coloniale, che spesso viene percepita come circoscritta solo agli anni del periodo fascista, ma sappiamo invece che non lo è. E ci tengo a ricordare che l'iniziativa nasce all'interno di una serie di incontri promossi dalla rete IECAPIT 12-19 febbraio, che è una rete che esiste da qualche anno, che ha come obiettivo proprio quello di promuovere, attraverso una serie di iniziative culturali, pubbliche, una conoscenza critica e collettiva del nostro passato coloniale, del razzismo, dell'esperienza della conquista che l'Italia ha portato avanti in diverse regioni dell'Africa. E quindi la data di Hecatit 12, sarebbe appunto il copto 19 febbraio, è la tristissima data del massacro di Addis Abeba avvenuto nel 1937, uno dei massacri che costellano l'esperienza del colonialismo, di cui noi non conosciamo pienamente la portata, i significati e anche i risultati nel presente, perché appunto, come dice il titolo dell'incontro, passato e presente coloniale nell'Italia di oggi, l'idea è capire come questa non memoria o non volontà di sapere, di conoscere approfonditamente quello che è successo, permea il nostro presente, la nostra quotidianità, non solo nei termini di comprendere i flussi migratori, questa diciamo è la prima ricaduta che ci viene in mente, ma anche come si costruisce una certa soggettività e una certa italianità ancorata alla bianchezza, a una autoindulgenza verso il nostro passato, le nostre esperienze coloniali, come tutto ciò ha a che vedere con il presente di oggi, la riproduzione di diverse forme di razzismo che spesso vengono silenziate, non riconosciute, le forme di ridicolizzazione anche di fronte alle denunce e la presa di parola da parte di soggetti, gruppi, persone afrodiscendenti, italiane, che hanno invece una memoria e una visione diversa. L'interesse di questo libro è che racconta appunto la storia coloniale italiana da partire dal vissuto di un ascaro, che appunto lo scrittore ebreo-Jesus Ailu mette al centro della sua narrazione, Tekabo, appunto, che è un giovane eritreo che viene ad essere coinvolto e fa parte come soldato questa guerra coloniale che lo porta a difendere gli interessi dell'Italia in Libia. E quindi quello che è importante è proprio poter ascoltare una storia dal punto di vista che noi persone bianche italiane non siamo state molto abituate a vedere questa storia, ascoltando altri punti di vista e ribaltando un po' la narrazione. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Il libro, appunto, L'ascaro, una storia anticoloniale di Ghebreyesus Ailu. L'incontro avverrà il 21 marzo dalle 11 alle 13 nell'aula B, via Ostiense, l'ingresso principale 234, 234. È un incontro pensato innanzitutto per gli studenti, ma è aperto anche a chi si è interessato. Un saluto e un ringraziamento all'antropologa Valeria Ribeiro Corossaz. A presto! A presto! Con un compagno di Baccelli.net per presentare l'iniziativa Ieri, Oggi, Domani, sempre contro il fascismo, sabato 23 marzo 2024 a Roma, appunto al Baccelli.net. Ben trovato. Grazie e un saluto a tutti, grazie per lo spazio della Bionda Rossa. Illustriamo l'iniziativa che stiamo organizzando per sabato 23 marzo alla Baccelli, che è in via Orciano Pisano, zona Monte Cucco Drullo. Abbiamo voluto fare questa giornata contro la destra, contro il fascismo, visto che è abbastanza importante oggi ribadire alcuni concetti. La giornata è molto ricca, parte in mattinata con una realizzazione di un murales a cura di Erika, un murales sull'internazionalismo, sulla tenerezza anche della solidarietà dei popoli. Questa è l'idea del murales da realizzare alla Baccelli. Poi ci sarà un pranzo sociale, uno spazio bar dall'una, e poi subito dopo c'è una presentazione di un libro di Paolo Morando, un giornalista di Trento che ha scritto La strage di Bologna. Lui si è sempre interessato di Piazza Fontana, la strategia della tensione, eccetera eccetera, e ha fatto questo libro sulla strage di Bologna, un bel libro dove si parla anche dell'episodio di Mambro Fioravanti, che hanno utilizzato la sorella di una vittima di Bologna. E poi intervengono sempre in questo dibattito Guido Caldiron, giornalista del Manifesto, e Paolo Pezzichetti in qualità di collaboratore di Paolo Morando come storico. E poi c'è un intervento dell'Osservatorio sulle Nuove Destre, che si presentano, sono dei compagni che lavorano a Roma sul fascismo e non solo, e presenteranno il loro lavoro. Verso le 17 ci sarà un momento meno impegnativo, perché si presenta Antifanzine, la rivista di fumetti, è arrivata al numero 14 e sarà dedicata a Dax, mentre si presenta anche il numero 13, che è una monografia sulle stragi, dove all'interno del numero 13 c'è anche un intervento di Pezzichetti. Il numero 14 non è dedicato solo a Dax, ma anche a Richard Corri, che era morta in Palestina, quindi è anche un omaggio al momento attuale sulla Palestina. Finisce la giornata con un intervento del comitato Liberiamo Ilaria Salis, e le conclusioni le farà una compagna di Renois sul futuro Renois 2020. 24. All'interno della giornata ci sarà anche la mostra che fece Cristiano Rea un anno fa, è scomparso, e fece una mostra per i 50 anni di Piazza Fontana al Forte Prenestino, e cercheremo di mettere dei cartelloni che aveva preparato per quella festa e anche un volantone che era sulla strage di Stato con i suoi disegni. In più metteremo anche dei cartelli della mostra di Zero Calcare sulla banalità del Nazi, che uscì sull'Espresso, non è una partita a bocce. C'è anche un coro partigiano Ampitrullo della sezione Franco Bartolini, loro partecipano alle giornate che si fanno come Bacelli Net e quindi volevano omaggiare la giornata con delle canzoni partigiane. Raccontiamo anche un po' l'esperienza, come nasce Bacelli Net, questa nuova formula. È una prova, è pure una scommessa, cioè quella di convogliare più forze che agiscono sul territorio e nelle varie iniziative. Questa è una delle prove, ci eravamo riusciti già con la mostra di quest'estate, la giornata dedicata proprio a Cristiano Rea, e quindi c'era l'intervento anche dei compagni del Faro, dell'Ampi, c'erano più situazioni, e quindi l'idea è quella appunto che Bacelli Net diventi un polo aggregativo di varie situazioni. Questo è un po' la scommessa che stiamo giocando, insomma. L'iniziativa ieri, oggi, domani, sempre contro il fascismo a Roma, Bacelli Net, sabato 23 marzo 2024. Alla prossima! Grazie e un saluto a tutti. A presto! Con Raffaele Spiga di BDS Italia, che ha curato il libro La catena dell'impunità. Ben trovato. Grazie a voi, grazie dell'invito. Partiamo dall'esperienza BDS Italia, per chi non la conoscesse, spieghiamo cos'è. BDS Italia rappresenta il movimento internazionale di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, che ha raccolto un appello internazionale fatto ormai 20 anni fa dalla società civile palestinese perché dall'esterno si facessero pressioni su Israele affinché rientri nella legalità internazionale, con iniziative di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, ovviamente. Il libro di cosa si tratta? È il secondo dossier che insieme a un gruppo di esperti del settore degli armamenti e non solo, e del rapporto fra Israele, Italia, Europa e Stati Uniti, praticamente abbiamo aggiornato un lavoro già fatto 4 anni fa, ma questa volta cade in un momento particolarmente importante e tragico, sotto gli occhi del mondo, un genocidio in diretta, e uso questa parola apposta perché è quello di cui si tratta, e realizzato grazie anche e soprattutto all'aiuto che alcuni paesi occidentali forniscono a Israele. Noi siamo certi che se gli Stati Uniti e l'Europa con i suoi principali attori cessassero la fornitura di armi a Israele, la guerra si fermerebbe in pochissimo tempo e si potrebbe tornare a un tentativo più decente e più umano di trattative che sono state interrotte e che sembrano una chimera a questo punto. Come è articolato il volume? È realizzato a più mani, sono 8 diversi autori, ognuno per il suo settore, dove si parla sia di aspetti di geopolitica, sia di dati sulle quantità, le qualità dei rapporti nel settore degli armamenti, dei sistemi d'arma, ma anche, questa è un po' una novità rispetto a pochi anni fa, anche nel settore dello spionaggio tecnologico e della guerra, diciamo, automatica, della cosiddetta intelligenza artificiale, che sono un po' le novità purtroppo rispetto a questa ultima manifestazione di violenza così pesante, così inaudita. E quindi ci sono diversi contributi, uno molto interessante è anche capire perché, abbiamo cercato di farlo con un autore molto autorevole, Angelo Stefanini, di capire perché gli obiettivi civili sono diventati così importanti, come soprattutto ad esempio le infrastrutture sanitarie, che sono al centro di continui attacchi e di pesantissime ritorsioni, ma non solo, anche le università, tutte le strutture religiose e civili sono state rase al suolo, e se uno non capisce anche il motivo per cui anche questo tipo di strutture sono state colpite, forse non capisce esattamente il senso di questa manovra, che è tesa a fare piazza pulita, è tesa a costringere e la popolazione civile di Gaza a una migrazione forzata, ma anche volontaria, perché non ci saranno più le condizioni per poter sopravvivere in quel pezzo di terra disgraziato. Gli 8 referenti che figure sono? Sono alcuni tra i maggiori esperti nel campo degli armamenti in Italia: Giorgio Beretta, Carlo Tombola, Rossana De Simone, Mazzeo Antonio. Sono quelli che hanno già compilato la prima parte 4 anni fa e sono sicuramente in Italia tra i ricercatori più quotati. In particolare volevo segnalare il lavoro che fa Carlo Tombola con la sua organizzazione che si chiama Weapons Watch, che controlla il traffico di tutti i porti dove passano navi con carichi di armi o di parti di armi. Quindi anche lì c'è un lavoro insieme ai portuali italiani e internazionali per bloccare queste spedizioni e questi traffici. Naturalmente le armi passano anche dagli aeroporti e quindi abbiamo potuto verificare quello che è stato detto dal ministro della cosiddetta difesa italiana, che non era vero che dopo la 7 di ottobre non sono più state fatte consegne di armi. È stato documentato e purtroppo non solo l'Italia ha mentito, ma anche altri paesi come anche la Spagna, che ha dichiarato di non avere più mandato armi, e abbiamo verificato che non è vero. E quindi i traffici continuano, le guerre non nascono per caso, l'aggressione a Gaza e al popolo palestinese di questi anni è facilitata, è resa possibile dalle complicità che vengono a livello internazionale, e si va avanti così da decenni. Il tutto non è iniziato il 7 di ottobre, non è che prima del 7 di ottobre ci fosse la pace, ci fosse una situazione accettabile. Sono 75 anni almeno che va avanti questa situazione di un popolo massacrato, di un popolo continuamente vilipeso in tutte le sue attività e progressivamente espulso. Adesso c'è stata un'accelerazione spaventosa e siamo alla Nakba 2.0, cioè si cerca di completare il lavoro fatto e non finito nel 1948. Quali sono i paesi coinvolti e di che mole d'affari stiamo parlando? Le cifre sono enormi. Enormi, tra l'altro in crescita ovviamente, ma non solo da adesso. Il grande balzo, per esempio, fu fatto ai tempi di Obama, che passò improvvisamente alla fornitura di 3,8 miliardi di dollari l'anno a Israele, rispetto a una cifra precedente che era molto molto inferiore. L'Italia ha aumentato progressivamente le proprie forniture, i propri traffici import-export. Noi siamo anche tra i primi 3-4 fornitori di Israele e tra i primi 4-5 importatori da Israele di diversi tipi di tecnologie, non solamente armi o sistemi d'arma, ma anche parti di ricambio, parti integranti di certe armi, di certi missili, sistemi di puntatura, sistemi di supporto e così via. Quindi il business intero è difficile da quantificare, ma sono per l'Italia solamente da quando si sono fermate le forniture, in realtà è passato 1 milione di euro. Per cui se quello vuol dire niente, vuol dire che prima ce n'erano molti di più. I rapporti con Israele in questo settore sono secretati e regolati da un accordo bilaterale che non è mai stato reso pubblico, è stato approvato praticamente a scatola chiusa dal Parlamento e aggira la legge 185 del 90, che è quella che prevede una rendicontazione a fine anno, cioè quindi a cose fatte, di quello che effettivamente è stato l'import-export. E adesso questa legge, guarda caso, vogliono smantellarla perché dà fastidio comunque che il Parlamento possa dire la sua su questo business assolutamente sporco. È un business illegale perché tutte le convenzioni prevedono che quando un paese è in guerra non vanno fornite armi. E questo è il discorso che noi chiediamo, le sanzioni contro Israele e contro qualunque altro paese sia nella stessa situazione, di fermare l'export di armi verso questi paesi. Lo prevedono le convenzioni internazionali. Noi ci rifacciamo al diritto internazionale, non perché il diritto internazionale sia perfetto, ma perché è meglio la legge internazionale piuttosto che la legge della giungla che ci viene in questo momento invece imposta, la legge del più forte, che è inaccettabile e porterà sempre a delle conseguenze ulteriori e peggiori per tutti, tranne ovviamente i produttori di armi. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Il libro si può acquistare anche online presso il sito della casa editrice, che è Red Star Press, ma si può acquistare anche sui principali negozi online, quindi è facilmente reperibile, il costo è contenuto, è meno di 15 euro e quindi è alla portata di tutti ed è molto agevole, è un'analisi documentata. Tutte le citazioni, tutti i dati sono forniti da enti ufficiali o da organismi internazionali super partes e quindi dal punto di vista scientifico è, pensiamo, quasi inattaccabile. Il libro La catena dell'impunità, un saluto e un ringraziamento a Raffaele Spiga di BDS Italia che ha curato il volume. A presto! Grazie molte a voi, buon lavoro, a presto! Con Eros Francescangeli, autore del libro Un mondo meglio di così, la sinistra rivoluzionaria in Italia 1943-1978. Ben trovato. Ben trovati a voi e salve a tutti. Di cosa si tratta? È una ricostruzione della storia delle organizzazioni, precise organizzazioni, quindi sono esclusi i movimenti, i centri sociali o strutture più fluide, le organizzazioni politiche di quell'area che appunto si definiva rivoluzionaria, quindi comunisti, socialisti e anarchici, che si è collocata all'inizio del Partito Comunista Italiano e del Partito Socialista, del PSUP, anche se occorre dire che all'interno di questi partiti, soprattutto il Partito Comunista e il PSUP, ma in parte anche nel PSI, basta dire che appunto i trotskisti in Italia nascono da una scissione dei giovani socialisti, esistevano correnti rivoluzionarie, cioè che pensavano di arrivare a un superamento del capitalismo tramite la rivoluzione, non il gradualismo riformista. E parto dal 43, appunto, da quando, dopo la caduta di Mussolini e il governo Badoglio l'8 settembre, si ricominciano ad organizzare le strutture politiche legalmente e arrivo al 78, cioè all'uccisione di Aldo Moro. Come nasce il libro? Nasce da 20 anni di ricerca. Ai primi anni 2000 ho iniziato a occuparmi di lavoro della sinistra extra istituzionale o rivoluzionaria, che si voglia, all'interno delle forze armate, studiando i proletari individui di lotta continua e l'organizzazione dei soldati democratici e altre strutture di intervento all'interno delle forze armate. Poi da lì ho allargato a studio anche di altri aspetti, fino a studiare tutte le organizzazioni, sulla base principalmente dei fondi conservati all'archivio centrale dello Stato, cioè i fondi per l'interno, le carte di polizia. Quindi le tue fonti sono state soprattutto quelle? Principalmente sì, poi ovviamente in equal misura, direi, ci sono i giornali prodotti dalle organizzazioni, bollettini, volantini, manifesti, insomma, e ovviamente anche una bibliografia a riguardo. Come lo hai strutturato il volume? Con un'ampia introduzione che di fatto può essere letta a stante, insomma, sono una novantina di pagine che affronta appunto la questione dell'oggetto di ricerca, la questione del 68, che è un po' uno specchio deformante per la lettura delle organizzazioni, non dei movimenti, ma delle organizzazioni, perché appunto fa partire tutto dal 68, quando in realtà esiste una tradizione precedente anche consistente. E poi la questione delle periodizzazioni, quindi dividere in vari momenti questi anni che vanno dal 43 al 78, la questione della cosiddetta violenza politica, della repressione dello Stato e della strategia della tensione, e poi c'è un capitolo sulle relazioni di genere appunto all'interno della sinistra rivoluzionaria, con particolare riferimento a Sentire il Popolo, quindi a un gruppo maoista abbastanza noto, l'Unione dei Comunisti Italiani. Poi il secondo capitolo appunto sono gli anni, quello che chiamo gli anni del dissenso, cioè gli anni che vanno dal 43 al 55. E poi gli anni della destalinizzazione, però una destalinizzazione a metà, perché in realtà il 56 provoca un fiorire di gruppi antistalinisti dopo i fatti d'Ungheria e dopo appunto 20° congresso del FUS, però provoca anche una reazione contraria alla formazione di gruppi marxisti-leninisti che si richiamavano allo stalinismo. E all'interno dell'ultimo periodo, insomma, prima di arrivare al 65-69, diciamo per il triennio rosso, perché in realtà non è solo il 68-69, ma anche il 66-67 sono importanti per la preparazione di un vasto movimento che poi sarà il 1900, troverà insomma compimento nel 68. Dicevo, nell'ultima fase c'è anche la nascita del maoismo, agganciata allo stalinismo, però dei gruppi che si richiamano appunto apertamente nel dissidio tra Unione Sovietica e Cina e posizioni cinesi. E poi appunto c'è questo quinquennio, non quadriennio rosso, dal 65 al 69, dove si raggiunge il massimo dell'esplosione e le organizzazioni si rimescolano. In questo senso il 68 è centrale perché è un volano, è un frullatore ed è un amplificatore di tradizioni che però, per precisarlo, erano precedenti. Per esempio io non uso il termine nuova sinistra perché appunto l'oggetto della mia ricerca è una sinistra che si chiamava Marx, a Bakunin, a Trotsky, a Lenin, insomma era tutto fuorché nuova, insomma, parlando per esempio alla New Left Kant, che invece è una produzione autonoma. E poi c'è un altro capitolo prima dell'ultimo, che è quello appunto della nascita dei gruppi post-68eschi, e l'ultimo capitolo, quello sulla fine, cioè questo tramonte c'è stato a partire in realtà da già dal 72-73, ma che trova la sua definizione nel 75-76 con l'esplosione del femminismo, con il circolo del proletariato giovanile che pongono la questione anche generazionale, il vecchio contro il nuovo, la lotta armata e la fine di alcune battaglie che sono state fondamentali. Quindi paradossalmente il movimento perde anche in potenza proprio perché alcuni obiettivi erano stati centrati, oppure non esisteva più il contrastare, il Vietnam non c'era più, il Portogallo e la Spagna non c'erano più, i regimi fascisti, il divorzio, l'aborto, l'abolizione dei manicomi, alcune battaglie fondamentali erano state vinte. E poi in realtà l'obiettivo massimo invece sembrava irraggiungibile, oppure bisognava fare la scelta, questi pensarono alcuni, di impugnare le armi. E molti di questi militanti insomma trovarono altre strade. Anche la categoria di riflusso per gli anni 80 io non la considero valida, però di fatto c'è fare politica in altri modi. Ripercorrendo questi decenni, che bilancio se ne può fare? Cosa viene fuori? Beh, il titolo già penso sia esplicativo, è tratto da una canzone di Vasco Rossi, un titolo stupendo, è scritto da Massimo Riva, è una che canta la disillusione, insomma. Questo non vuole essere un libro che spinge al disimpegno, a parte che è un libro di storia, quindi le finalità non sono di tipo politico immediato. Se c'è una finalità politica è quella di riflettere sul passato per cercare di evitare magari qualche errore. Il bilancio che ne traggo appunto che c'è stato un periodo della storia italiana che in realtà parte già da fine 800, dove appunto si pensava di vedere un'alba e invece poi ci si rende conto a cavallo degli anni 80 che anche soprattutto col senno del poi, dopo la caduta dell'Unione Sovietica, che era un tramonto. Certo, dopo il tramonto c'è la notte, poi ci sarà un'altra alba, si spera. Quindi il bilancio è quello di una giornata che se n'è andata e alla fine non è stata così bella quella giornata. Libro Un mondo meglio di così, la sinistra rivoluzionaria in Italia 1943-1978. Un saluto e un ringraziamento all'autore Eros Francescangeli. A presto! Grazie a voi, un saluto a tutti. Il coautore Stefano Portelli sul libro Le nuove recinzioni, città, finanza e impoverimento degli abitanti, una presentazione a Roma al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino mercoledì 20 marzo 2024. Ben trovato. Ciao. Ce lo presenti? Intanto grazie dell'interesse. Questo è un libro che inaugura una collana di Carocci Editore che si chiama Territorio e Società. Credo che sia un po' un segno del fatto che la questione dell'ingerenza della finanza nella vita urbana e nella vita sociale in generale stia diventando un tema rilevante. L'operazione che abbiamo fatto Lucia Tozzi, Luca Rossomando e io è stato cercare di portare l'attenzione ai rapporti tra finanza e mondo dell'immobiliare, cioè vita abitare e proprietà della casa e soprattutto degli affitti. Siamo tre persone molto diverse sia come stile di scrittura sia come ambito di azione, perché Lucia Tozzi è giornalista, vive a Milano e ha da poco scritto un libro che ha avuto molto eco soprattutto a Milano, ma non solo, che si chiama L'invenzione di Milano, ed è un libro in cui spiega molto chiaramente l'immaginario che sta dietro le trasformazioni di Milano, che in questo momento è la città più finanziarizzata d'Italia. Il libro racconta proprio le forme della retorica con cui viene promossa questa vendita della città ai grandi investitori immobiliari, anche internazionali, ma anche alla creazione del mondo immobiliare finanziario locale. Luca Rossomando è il fondatore della rivista Monitor, ma è questa rivista quella che ci ha tenuto un po' tutti insieme, noi scriviamo da tanti anni per Monitor, e Luca lavora a Napoli e ha scritto un capitolo sui quartieri spagnoli e quindi sulla turistificazione, sull'esplosione del turismo nel centro di Napoli e soprattutto nei quartieri spagnoli. Io sono ricercatore in antropologia urbana e invece ho lavorato su Roma, il mio capitolo è sulla trasformazione delle case e degli enti, in particolare su Cinecittà Don Bosco, però in generale sull'edilizia convenzionata e quindi questa cartolarizzazione dell'edilizia in convenzione a Roma, che è la città italiana dove ci sono più case appartenenti agli enti dei fondi previdenziali, e sui piani di zona, che è un'altra forma di edilizia convenzionata. Abbiamo lavorato su città molto diverse con approcci molto diversi, in cui ci sono tra l'altro dei processi molto diversi tra Roma, Napoli e Milano, però abbiamo deciso che volevamo tenere insieme questi tre discorsi perché abbiamo l'impressione che ci sia una linea di continuità tra quella che viene più generalmente chiamata gentrificazione, come quello che stiamo vedendo nei quartieri spagnoli, certe forme di privatizzazione del welfare, come quelle su cui ho lavorato io a Roma, e la finanziarizzazione assoluta dell'immobiliare, che è quella che si vede a Milano. È da tempo che in molti ambiti delle scienze sociali si usa il termine recinzioni per indicare forme di appropriazione di beni comuni e trasformazione in strumenti di profitto, quelle che normalmente passano sotto il nome di valorizzazione. Questo diktat della valorizzazione di spazi, forme di vita, strumenti di welfare, fino ad arrivare a quelli che racconta Lucia Tozzi sulla valorizzazione del pensiero critico, della vita sociale, addirittura dell'alternativa. Volevamo mettere insieme tutti questi fenomeni e dire, secondo noi è un fenomeno unico, abbiamo chiamato le nuove recinzioni. Ci sembra che ridurre tutto a questa gentrificazione, questa cartolarizzazione, questa privatizzazione del welfare sia riduttivo, perché quello che abbiamo di fronte è un enorme accaparramento di risorse da parte dell'elite attraverso lo strumento delle recinzioni e della messa a valore per trasformarle in strumenti di profitto che si svolge su un'infinità di elementi della vita sociale. Come avete deciso di strutturarlo? Il libro si compone di tre capitoli, dopo un'introduzione che abbiamo intitolato con una citazione di Edoardo Galeano, la povertà delle persone come conseguenza della ricchezza del territorio. Questa era una delle frasi che a noi risuonavano delle recinzioni attuali in zone come il Centro America o l'America Latina, in quella è una frase che, se non sbaglio, parlava del Chiapas, dell'impoverimento delle zone più ricche del Messico conseguenti a quella forma di recinzione degli anni 90, che sono stati i trattati di libero commercio, l'abolizione delle terre comunitarie, che hanno provocato un impoverimento, in quel caso delle comunità indigene. Abbiamo deciso di chiamare l'introduzione in questo modo perché vogliamo proprio connettere una serie di termini che vengono applicati soprattutto in ambito rurale o indigeno, extraeuropeo, come appunto quello dell'appropriazione delle terre comunitarie o il land grabbing, a fenomeni che ci sono molto più vicini e che peggiorano sensibilmente le nostre vite, ma che tendiamo a non vedere come parte del lavoro di recinzione, per cui appunto la cartolarizzazione dell'edilizia in convenzione di proprietà degli enti previdenziali sembra un tema per esperti, chi è che si è andato a studiare perché qualche conoscente prima abitava nelle case di Enasarco, che è l'ente previdenziale dei rappresentanti di commercio, e poi si è potuto comprare la casa. È difficile associare questo tipo di passaggi al processo di recinzione del welfare, che invece vediamo più chiaro per esempio sulla sanità, sulla scuola e su una serie di altri elementi. Il punto di partenza è che c'è un nucleo comune a tanti processi urbani che sembrano radicalmente diversi, e mettere in comune le battaglie su su ogni singolo processo permette anche di allargare il fronte, perché siamo in una situazione in cui sembra che il problema dell'inquilino sia non solo diverso ma anche contrapposto a quello del proprietario che paga il mutuo, e che il problema dell'assegnatario delle case popolari sia contrapposto a quello dell'occupante delle case popolari. L'idea di riassumere tutte le battaglie e tutti i fenomeni di espulsione e di dispossessione che vediamo nelle città sotto un'unica idea, che è quella che noi proponiamo delle recinzioni, ci permette di riconnettere anche teoricamente quello che poi già sta avvenendo nelle piazze. Cioè, sempre più spesso ci troviamo che nelle piazze ci siano gli occupanti, gli assegnatari, gli inquilini e delle volte anche qualche proprietario, gli assegnatari delle case degli enti, gli assegnatari delle case comunali, perché il processo che sta espropriando tutte queste parti della società è un processo unico che ha come attori non necessariamente soltanto grandi operatori finanziari, ma proprio le istituzioni, lo Stato, il Comune, le Regioni, che dovrebbero tutelare certe forme di welfare, certe forme di edilizia pubblica, e invece li usano per creare profitto per operatori privati. Abbiamo iniziato con un capitolo su Milano, che si chiama Milano Finanziarizzata, scritto da Lucia Tazzi, che racconta in particolare su alcuni quartieri che sono Porta Romana e Corvetto, come la finanza abbia superato il livello dell'appropriarsi, ma sta riuscendo a inserirsi proprio nella produzione dell'edilizia pubblica attraverso lo strumento del social housing. I privati che investono sull'immobiliare riescono ad appropriarsi anche degli strumenti che dovevano limitare i loro profitti e il loro potere, e quindi siamo in una fase molto avanzata di finanziarizzazione. Il capitolo successivo, che si chiama Il furto dell'edilizia calmierata a Roma, che è quello che ho scritto io, mi pare che nello studio dell'edilizia pubblica a Roma tendiamo a concentrarci sulle case popolari. Tanto le case popolari sono importantissime, però a Roma sono 74.000, cioè neanche il 6% della popolazione vive nelle case popolari, nella cosiddetta edilizia sovvenzionata. Però c'è una parte molto più grande di edilizia pubblica, che è l'edilizia in convenzione o agevolata, e sono appunto le case degli enti previdenziali e le case nei piani di zona. E queste sono una quantità enorme di case, ci stanno 90.000 famiglie nelle case degli enti previdenziali, e le case create coi piani di zona sono 240.000, quindi stiamo parlando quasi di 500.000 di persone nei piani di zona e 200-300.000 persone nelle case degli enti. In una città di 2,5 milioni di abitanti sono una parte enorme della popolazione, e queste strutture di edilizia, diciamo, semipubblica sono state trasformate in strumenti di profitto, e questa cosa naturalmente ha impoverito terribilmente anche chi è riuscito a comprarsela, per non parlare di chi è stato scattato. E questa è una cosa che ha determinato negli ultimi 20 anni una deriva gravissima della parte abitativa del welfare pubblico a Roma. C'è anche una storia di una donna che è venuta a chiedere aiuto all'Assemblea di Autodifesa degli Sfratti, di cui faccio parte, che è nata a Borgo Pio e nel corso di 5-6 successivi traslochi ora sta perdendo anche la casa in cui è riuscita a rimanere questi ultimi 15-20 anni, a Castel Giubileo, quindi praticamente su raccordo. E vedi proprio come il proletariato storico viene espulso sempre più fuori dalla città. Il terzo capitolo si chiama I quartieri spagnoli al tempo del turismo di massa, e l'ha scritto Luca Rossomando, ed è un capitolo molto etnografico, descrive degli episodi di persone che riescono a trasformare la loro attività economica in linea con quello che si può estrarre dal turismo, per cui le botteghe che diventano spizzerie, quello che si improvvisa guida turistica, o quello che fa l'Airbnb, che affitta il bus, come una progressiva costruzione di valore nel quartiere che per il momento gli abitanti ancora riescono a prendersi, e quindi si sdogana in qualche modo, finché nell'ultima parte del capitolo descrive l'emergere di questa fondazione Focus, Fondazione Quartieri Spagnoli, che, mantenendo il discorso dei quartieri spagnoli, zona degradata in cui c'è bisogno di bellezza, cultura eccetera eccetera, canalizza i finanziamenti pubblici in un'unica struttura del terzo settore, una struttura che nasce dalle scuole private di Napoli, la grossa istituzione educativa in mezzo ai quartieri spagnoli, che si nutre proprio di questo valore simbolico del quartiere povero che piano piano diventa culturale, murales eccetera eccetera, e lo trasforma in potere finanziario. Quindi sono tre storie molto diverse, però che hanno al centro questa appropriazione del valore, questa costruzione di valore prima dalle basi fino ad arrivare all'estremo del prendere in mano la produzione stessa del welfare. A presto. Grazie a voi per la pazienza. Ciao. Il coautore Stefano Portelli sul libro Le nuove recinzioni, città, finanza e impoverimento degli abitanti, una presentazione a Roma al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino mercoledì 20 marzo 2024. Siamo all'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. E buon pomeriggio a tutti. Andiamo ad aprire questa settimana teatrale sempre partendo dal nostro amato Teatro del Bella Monaca, perché questa settimana viene aperta da uno spettacolo ispirato al diario di Adamo ed Eva di Mark Twain, con la regia di Matteo Milani, Finché Mela non ci separi, 19-23 marzo, il testo è di Lara Balbo, insomma è curato da Lara Balbo, un testo molto bello, un testo molto moderno, quello di Mark Twain, dove viene posta l'attenzione sull'amore, cioè sul motore che muove gli esseri umani, insomma. Andando a pescare, diciamo, forse la storia principale in cui l'amore prende già anche il suo contrario, per fa vedere anche l'altra faccia un po' della medaglia. Seguirà invece durante il fine settimana, sabato 23 e domenica 24 marzo, tutti i libri del mondo o quasi in 90 minuti. La produzione è La macchina del suono, il testo è di Reed Martin e Austin Ticanon, che insomma è curato in una regia collettiva, e sarà un excursus, diciamo, letterario in oltre 90 dei più grandi capolavori mai scritti sul pianeta Terra, raccontati in 90 minuti. Quindi ecco, effettivamente è una bella avventura dal giro del mondo in 80 giorni a tutti i libri del mondo in 80 minuti, in 90 minuti, non lo so qual è più difficile tra le due. Il fine settimana dedicato come sempre ai bambini, 24 di marzo per Le avventure di Hercules, nel pomeriggio, ovviamente domenica. Poi, dunque, la manifestazione Altri luoghi comuni nell'ambito della 20ª settimana d'adozione contro il razzismo, iniziata già questa settimana, andrà avanti appunto per tutta la settimana con un po' di appuntamenti. Dunque, andremo a vedere un po' di lavori di varia natura, insomma, non soltanto teatrali, però segnalo sicuramente alcuni appuntamenti sparsi in giro per l'Italia, ma a Roma saremo venerdì 22 con un lavoro curato dal regista Daniele Coscarella presso un filo scolastico in via Balzani, dove insomma gli alunni della scuola elementare faranno la loro parte all'interno di questa manifestazione, che segnalo perché è particolarmente importante contro il razzismo, quindi probabilmente ecco meno nota ai più, ma mi fa piacere poterla segnalare perché è un atto importante, un atto concreto, quando le arti poi insomma in tutta Italia cercano di unire contro il razzismo. Dunque, procedo ancora oltre perché al Teatro dei Servi va in scena questa settimana, da oggi fino al 31 marzo, la commedia brillante Mi è scappato il morto, diretta da Andrea Bizzarri, e segnalo anche a Teatro Lo Spazio Rogne, che debutta oggi e domani, 19-20 marzo, Daniele D'Arcangelo e Luca Refrigeri, questo spettacolo che racconta insomma la storia di due protagonisti, la grossa Rogne di Mario, che è direttore artistico di un piccolo teatro, e che il cantante che sta per esibirsi sul palco non è affatto il cantante amato e voluto dal suo capo per quella serata, quindi è una bella rogna da affrontare. E segnalo anche al Teatro Lo Spazio invece 22-24 marzo e alla fine esplosero le supernove Leonardo Zarra, Faiza Mohamed, per questo lavoro che è la storia di un giovane padre singolo senza entusiasmo e di sua figlia, una bambina prodigio che soffre di mutismo selettivo ma dalla rara intelligenza. Questa è l'avventura che andremo a raccontare al Teatro Lo Spazio. Andiamo anche alla Fortezza Est, 21-23 marzo, un monologo ironico e divertente sul disagio generazionale dei ventenni di oggi, che si chiama Cade la neve, figurati io, con Rebecca, chissà, ce lo dirà poi lei se si pronuncia con la E aperta o la E chiusa, Rebecca Righetti, io credo sia aperta, e andremo a vederla appunto alla Fortezza Est dal 21 al 23 di marzo. Teatro India, per la 12ª notte, dal 19 al 24 di marzo, con la regia di Giovanni Ortolevo, ovviamente il testo di William Shakespeare. Giovanni Ortolevo appunto prende in mano questo adattamento e la regia di una delle migliori commedie shakespeariane. Siamo sulla costa dell'Illiria, l'amore si diffonde al ritmo endemico, addirittura il duca Orsino è innamorato di Olivia, ricca contessa che si nega alla sua vista per onorare il ricordo del fratello scomparso, e quando nel paese arriva Viola, e no, poi non procedo oltre perché poi la trama la sappiamo, insomma, gli esperti, ma si può trovare facilmente. E questa versione di Giovanni Ortoleva è ruota chiaramente tutta intorno all'amore, si parla soltanto di questo nello spettacolo, ma si fa in tutte le forme, l'amore delirante, bizzarro, violento, dolce, appassionato. Insomma, questo è il tema della dodicesima notte, 19 e 24 di marzo al Teatro India. Poi, invece, per Pop-up Theater, Libero Teatro in Libera Città, da oggi fino al 26 di maggio, una serie di appuntamenti che poi ricorderemo, progetto della compagnia Naufragar Me Dolce, che spesso ricordiamo. In questa occasione il tema che verrà affrontato un po' in tutti gli appuntamenti è quello dell'integrazione, quindi invito insomma a vedere un po' più da vicino i vari appuntamenti, perché sono davvero molti da oggi fino al 26 di maggio. Magari penso che sul sito del Naufragar Me Dolce, sì, naufragarmedolce.it, sicuramente tutto il programma. Ricordiamo che l'ingresso è libero, quindi questo è anche un dato di più interessante partecipazione. Invece Argo Studio per Harold Pinter, Vecchi Tempi, la regia è quella di Filippo Gini con Alessandro Tedeschi, Giulia Perulli, Anna Foglietta, 21-24 marzo, questo è un testo meraviglioso per premio Nobel per la letteratura, Harold Pinter. C'è un enigma, sembra una semplice storia, quella di tre anime assai zoppe. Kate, una donna che 20 anni prima ha misteriosamente tradito la propria vocazione omosessuale, Billy, l'uomo che ha solo apparentemente raccolto l'inversione di lei, e Anna, la vedova che dopo 20 anni di nebbia cerca di far luce su quella enigmatica, tremenda automutilazione. Questo è Vecchi Tempi di Harold Pinter al Teatro Argo Studio dal 21 al 24 di marzo. Io andrei anche a vedere, se me lo consente sempre tecnologia, sì, appunto, Teatro Basilica, perché ci sono ben due spettacoli questa settimana. Pietro Angelini, 21 e 22 marzo, presenta Un onesto e parziale discorso sopra i massimi sistemi, è uno spettacolo in bilico tra ironia e disperazione, un autoritratto dell'autore che è anche una biografia del contesto storico, sociale e artistico contemporaneo. Pietro insomma è un giovane uomo, un attore, figlio, ancora con un molto senso di responsabilità, come un individuo che ha tante domande da fare al mondo e le fa anche a se stesso. Questo è Un onesto e parziale discorso sopra i massimi sistemi, mentre invece segnalo che a seguire 23-24 marzo arriva a Roma, sempre Teatro Basilica, Giuseppe Scoditti, un attore che è un comico, fa stand-up comedy e presenta questo Paolo Sorrentino, Vieni, devo dirti una cosa. Io l'ho visto già in scena, è davvero spassosissimo, anche perché ha una felicità particolare che insomma permette di dialogare con lo spazio in un certo modo. Chi è appassionato di cinema, del cinema di Nanni Moretti, l'avrà visto, Giuseppe Scoditti sicuramente, nei panni del giovane regista in ascesa con cui si confronta Nanni Moretti nel Sol dell'Avvenire. Quindi insomma, ecco, per ritrovarlo in teatro vi assicuro che la serata non sarà perduta. Paolo Sorrentino, Vieni, devo dirti una cosa, questo è il titolo dello spettacolo, quindi Teatro Basilica. Segue Le carrozzerie notte, precisamente durante questi giorni del fine settimana, tornerà a Roma, c'è già stato da poco con un altro spettacolo, ma tornerà a Roma Oscar De Summa con L'ultima eredità, 22, 23, 24 marzo alle ore 21, appunto alle carrozzerie notte, la storia di un doppio viaggio geografico ed emotivo. Alla notizia del peggioramento delle condizioni di salute del padre, il protagonista torna nel suo paese d'origine per un ultimo saluto, ma mentre torna ripercorre poi in viaggio quello che è anche un viaggio nel tempo, nei luoghi che sono stati della sua infanzia, della sua storia prima di migrare in un'altra città. Io l'ho visto, uno spettacolo particolarmente toccante, e il rapporto con il padre emerge in una forma davvero profondissima, 22, 23 e 24 marzo alle Carrozzerie Not per Oscar De Summa. Ultimi appuntamenti, sono tre, guardate, sono tre gli appuntamenti che vorrei citare. Allora, allo Spazio Rossellini, 24 marzo alle ore 17, il pomeriggio, Officina Prometeo, ed è diviso per zero, ovvero sia Francesco Picciotti, che presenta questo lavoro con lo spettacolo per famiglie, sì, sicuramente, però non soltanto, perché Picciotti lo conosco per essere un autore particolarmente entusiasmante, e lavorerà sicuramente con il teatro di marionetta, con gli oggetti, con pupazzi, ed è la storia di come furono inventati tutti gli animali, compresa quella strana bestia senza corna e zanne, capace di creare cose mirabolanti, e cioè l'essere umano. Questo è quello che andremo a vedere al Spazio Rossellini domenica pomeriggio alle ore 17, e secondo me è da seguire. Poi, ultimi tre appuntamenti, giuro che poi ho finito, non vi lamenterete di me. Allora, prima cosa che vado a segnalare, attenzione, apriamo le orecchie, ritorno a Roma di uno spettacolo importantissimo, straordinario, scritto e diretto da Lucia Calamaro, 22-28 marzo al Teatro Argentina con L'origine del mondo. Alice Redini, Lucia Mascino, e il cast si avvale in questo caso anche di una giornalista, ci sono state molte polemiche nell'ultima settimana circa il suo impiego, e si tratta di Concita De Gregorio, che per la prima volta, insomma, entra in uno spettacolo, era già stata all'interno di un teatro per fare cose più legate al giornalismo, al racconto, ma è sicuramente in uno spettacolo di pura recitazione con un testo non suo, non era mai accaduto. Ritratto di un interno, questo è il sottotitolo dello spettacolo, che ha vinto numerosi premi qualche anno fa ai premi UBU, ed è articolato in tre atti con un cast completamente nuovo, appunto, se ne va in scena di nuovo al Teatro Argentina, produzione del teatro, una riproduzione del Teatro di Roma, visto che insomma lo era già qualche anno fa. Quindi ricordo, 22-28 marzo, L'origine del mondo al Teatro Argentina. Secondo degli appuntamenti che voglio ricordare meglio, diciamo con attenzione, è l'arrivo a Roma di questo nuovo lavoro firmato nella regia di Carmelo Rittici, il testo di Angelo De Mattè, in scena Paolo Pierobon, De Gasperi, L'Europa brucia, lo spettacolo chiaramente si propone di mettere in scena questo personaggio dalla statura e dalla complessità particolari, luce e ombra, insomma un uomo che aderì al suo compito politico, ovvero sì appunto al CIDE De Gasperi, dal 19 al 24 marzo al Teatro Vascello, per andare a mettere in luce questa figura della storia italiana che insomma nel bene o nel male in un modo o nell'altro ha rappresentato l'origine di una storia repubblicana particolare, democratica cristiana, molti direbbero. Quindi al CIDE De Gasperi, L'Europa brucia, 24 marzo al Teatro Vascello. Ultimo spettacolo che voglio ricordare è quello che sarà al Teatro Quarticciolo. Sono 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia e il 23 e 24 marzo torna a Roma uno spettacolo premiato già anni fa e realizzato da Carolin Baglioni con la regia di Michelangelo Vellani, un spettacolo che vinse il premio Scenario Perustica nel 2015. Io c'ero e fu molto molto emozionante, e sta in scena appunto al Teatro Quarticciolo questo Gianni, ispirato alla voce di Gianni Pampanini, ed è un lavoro che recupera la trascrizione fedele di una sorta di testamento sonoro che Gianni Pampanini, zio di Carolin Baglioni, ha lasciato su tre audiocassette incise alla metà degli anni 80 e ritrovate poi 20 anni dopo. Su questi nastri Gianni appare come un uomo con problemi maniaco-depressivi, e lui è scomparso nel 99 e ha vissuto sulla propria pelle proprio questo passaggio epocale, questa rivoluzione culturale e scientifica che ha portato Franco Basaglia alla chiusura dei manicomi ormai qualche anno prima. Questo è quello che andremo a vedere, quindi per chiunque abbia questo tipo di curiosità e di interesse, ma anche chi non l'abbia, assolutamente uno spettacolo bellissimo che andrei a rivedere molto volentieri. Quindi vi ricordo, 23-24 marzo, Teatro Biblioteca Quarticciolo, con Gianni per lo spettacolo di Carolin Baglioni ispirato a questi 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia. E con questo direi che è tutto, ciao!